La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Io e lui ci siamo innamorati sui banchi di scuola a 14 anni e da quel momento siamo sempre stati insieme. Convivenza, matrimonio, fedeltà sentita e reciproca. Qualche lieve tentazione ci sarà stata per entrambi, ma l'abbiamo sfiorata con eleganza, senza caderci dentro. Finché all'improvviso, dopo 18 anni, lui mi ha lasciata per un'altra, che però è durata poco anche lei, perché si è messo a correre dietro a tutte. Ha una storia dietro l'altra, anche due insieme, però non mi lascia in pace. Viene da me in cerca di consolazione, dice che ha una vita vuota, che mi rimpiange, che a volte sogna che ci rimettiamo insieme. Mi piange sulla spalla, enumerando le sue conquiste e rimpiangendo il nostro paradiso perduto, parole sue, e dice che ci pensa sempre a noi due e pensa che non è mai stato felice come con me, e a vederlo così qualche volta mi sembra che sia colpa mia che se ne sia andato. Aldina. Intanto il nome, Aldina, che ormai si trovano solo nelle lettere, questi nomi, mai nella vita. Aldina, sei stata la sua prima ragazza e si può capire che dopo anni questo perplessissimo uomo abbia avuto voglia di altre esperienze, non so, di fare un salto dalla finestra, di toccare tutte quelle che incontrava, di fare un po' il girandolone. È anche simpatico questo suo lanciarsi nella danza con una prontezza che fa immaginare francamente ne avesse voglia già da un bel po'. Poteva capitare a te, invece è toccato a lui. O almeno lui se n'è accorto. Eccolo dunque con una leggerezza da ape svolazzare di fiore in fiore. E va bene, ma che ci faccia pure la vittima. È un grande sfacciato. È come il detto napoletano che ogni tanto siamo costretti a citare, chiagne e fotte. O il proverbio italiano anche, piange col sorcio in bocca. Si dà la pazza gioia e poi vuole essere compatito. No, ma una volta avesse detto come mi sono divertito, no, non pago di averti abbandonato, ti vuole buttare addosso anche il peso del suo divertimento, castigandoti due volte. No, ripeto, almeno l'avesse detto come me la spasso, accidenti come me la... Però senti, mentre lui ci pensa e ci ripensa, perché non ci pensi un po' anche tu, Aldina? Non sei una ragazza comune, quando l'hai lasciato andare hai osservato una liberalità che rasenta la perfezione, ma fra tanti uomini, ma proprio di questo arnese tu sei innamorata. Le donne sono matte e questo mi rallegra e mi consola, è sicuramente per questo che viviamo più a lungo. Elvis, puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. Adesso vorrei fare brevi ringraziamenti a lettere brevi. Per esempio, Corona da Rovereto, che ci ascolta la domenica mentre sonnecchia. E questo mi piace molto, essere mischiati tra sonno e veglia. E poi Patrizia per un elogio che non voglio riferire, ma graditissimo. E poi Monica che dice: la mia domanda è semplice, come faccio ad amarmi di più? Mi sono resa conto di non avere molta stima di me. Forse perché i miei genitori hanno sempre pensato che fosse meglio farmi notare i miei difetti piuttosto che i pregi, altrimenti mi sarei inorgoglita. Ero una bambina grassa e lotto da sempre con la bilancia. Eppure immagino di essere una bella donna. So di avere raggiunto dei grandiosi obiettivi e di poter ambire a molti altri. Ho un marito incredibile e un figlio che definire un angelo è riduttivo. Mi è capitato di ragionare sul detto «ama il prossimo tuo come te stesso» e ho pensato che l'obiettivo è stato equivocato. Non è l'altro il vero protagonista della massima, ma sono io. E la domanda è: come faccio ad amarmi di più? Hai qualche consiglio per me? Ma no, Monica, semmai ce l'avrai tu per noi, perché te la sei cavata meglio di me avendo superato tutte quelle prove, e quindi quali consigli? Poi ringrazio Stefano Perri, che manda un brano della Sacra Bibbia, versione nuova riveduta, sul libro di Giobbe. Ti ringrazio. Un altro, Claudia chiede dove può trovare la mamma. È un mio racconto che avevo letto, pressoché introvabile, forse su eBay, chissà. È un libro che, intitolato Fulmini, edizioni Spirali, è uscito nel 1984. E poi questo invece, devo girare gli elogi a Gloria Guerrera e ad Alessandro Chiappini. Miria scrive: bella la dissonanza tra la dolcissima canzone di Otis Redding, White Christmas, e la terribile realtà delle carceri italiane descritte da Musumeci e combattuta da Pannella. Questa musica veicola nel profondo di ognuno di noi le emozioni provocate dalle parole. Alberto Zoina, ringrazio anche lui perché è un grande amatore di Akhudzhava, il cantante russo della nostra sigla. Grazie Alberto, io devo tutto alla scuola di russo del professore Alberto Carpitella, che è stato la mia Russia, insieme ai libri di Serena Vitale. Da questo piccolo circolo di lettura che abbiamo creato con gli ascoltatori ci arrivano ogni tanto delle informazioni o delle suggestioni importanti. Antonio Previ scrive a proposito del poeta Vladimir Majakovskij, che morì suicida a 36 anni nel 1930. Scrive Antonio: mi risulta che nel biglietto d'addio, prima di suicidarsi, Majakovskij scrisse: dite a Yermilov che mi rincresce di non aver finito di ingiuriarci. Può commentare, visto che non lo riporta nel suo libro? Sì, ha ragione. Bisogna spiegare anche agli ascoltatori chi era poi questo Yermilov. Era uno della RAP, ovvero l'associazione di scrittori proletari, fierissimamente nemici di Majakovskij. Io pubblicai questo libro con Marsilio nel 2002, intitolato Gelosa di Majakovskij, e originariamente era di 700 pagine, e poi l'ho molto accorciato. Però ho parlato distesamente dei rapporti di Majakovskij con la RAP, ripeto, associazione degli scrittori proletari, che furono sicuramente decisivi perché si sparasse il famoso colpo al cuore il 14 aprile del 1930. La RAP era un covo di giovani ambiziosissimi, delle belve, capeggiati da personaggi come Averbach o Yermilov, di cui parli tu, che fondavano il loro potere sull'intransigenza, ovvero quelli che stabiliscono chi è un vero comunista e chi non lo è. E lui era un inquisitore senza scrupoli, con un fiuto infallibile nel perseguitare il talento vero. Infatti ritroveremo Yermilov quasi 20 anni dopo il suicidio di Majakovskij, che ancora perseguita un altro grande scrittore perseguitatissimo dal regime, che sarà Andrei Platonov. Sì, gli attacchi di Yermilov a Majakovskij erano stati decisivi. Dopo la rappresentazione del Bagno, un'opera fondamentale di Majakovskij, Yermilov aveva scritto che erano le idee di sinistra di un piccolo borghese. Un insulto atroce per Majakovskij, che era stato e ancora si considerava il simbolo della rivoluzione, e sentirsi dare del reazionario, quando invece le sue critiche al regime, contenute nel Bagno, erano proprio sul tradimento della rivoluzione del 1917. Nessun dissidente, nessun nemico del comunismo aveva mai scritto niente di così coraggioso contro il regime come Majakovskij nelle sue ultime pièce, ovvero La cimice e Il bagno. Tanto che Agranov, capo della polizia segreta, lo chiamò e gli disse: bel poeta sovietico, la vostra cimice è una commedia scandalosa, ve la prendete coi funzionari, coi ladri di regime, coi compagni amministratori, con l'arroganza dei capi, con la scuola, ve la prendete con tutti, ma lo sapete in quanti vogliono la vostra testa? E lui risponde, Majakovskij: ma perché ho criticato la NEP, cioè la nuova politica economica? E Agranov gli risponde: voi non ce l'avete con la NEP, ma con tutto il sistema, vi siete messo su una brutta strada. E dopo questa minaccia, lui invece scrive Il bagno, la satira che gli costerà la vita. Ecco le reazioni al bagno. Per via del bagno, questo è Valentin Katayev, grande amico di Majakovskij, che scrive: per via del bagno insorse una specie di caccia a Majakovskij. Dagli articoli della RAP alle discussioni promosse ogni giorno nei soviet degli artisti, dove, in nome della classe operaia, gli rinfacciavano tutti i peccati mortali: sciovinismo, imperialismo, aristocratico disprezzo delle masse. Tenga presenti le nostre critiche, compagno Majakovskij, se non vuole trasformarsi in un compagno di strada di destra, o magari anche peggio. E quando passava fra loro, quell'infernale soviet sembrava ripetere con voce impercettibile e minacciosa: vilipendio, vilipendio, vilipendio. Majakovskij morì senza aver mai preso la tessera del partito, perché lo considerava offensivo. Lui era la rivoluzione. Trovava terribile che questo fosse certificato da un tagliandino di carta. E questo va a suo onore. Mantenne questa indipendenza, ma fece di peggio. Si iscrisse alla RAP. Quatto, zitto, senza dirlo a nessuno, perché ne aveva una vergogna birbona. Stretto all'angolo, pensa di paralizzare i suoi avversari diventando dei loro. Non servivano a proteggerlo le folle che lo amavano, che venivano in treno dalle repubbliche lontane, giovani con gli occhi obliqui e ragazze vestite a festa con le scarpe in mano per ascoltarlo. Ma lui sa che nel paese del socialismo la gente non conta. Contano i tipi come Averbach, come Yermilov, i cocchi del partito. Beh, entrerà nel loro covo, alla pari. Iscrivendosi alla RAP, crede di piombare là in mezzo come una bomba, costringendoli a passare dalla sua parte. Ma lì ebbe la misura della sua disgrazia. Lo trattarono come un dinosauro. Lo accolsero, ma facendogli intendere che era un uomo del passato. Abbiamo parlato dell'Ocrana, della cieca. E qui il narratore nel mio libro dice: io ho lavorato all'Ocrana, alla cieca, ma dei pezzi di delinquenti come la RAP non li avevo ancora mai visti. E di questi faceva parte Yermilov. E quando Majakovskij, nella lettera d'addio, prima del suicidio, cita Yermilov e dice la frase che lei, Antonio, ha citato, dite a Yermilov che mi dispiace che non abbiamo finito di ingiuriarci, è l'ultimo gesto cavalleresco di questo poeta, l'ultimo magnifico spreco, perché è rivolto a uno che la lealtà non sapeva cosa fosse e della disonestà intellettuale aveva fatto la sua arma sterminatrice. È l'ultimo messaggio di eleganza morale a uno che l'eleganza e la moralità non seppero mai dove stavano di casa. È dedicata a quelli che mi hanno scritto e cui non ho risposto, ma perché soffrono per amore, perché ad un tratto si vedono una porta sbattuta in faccia e spesso non si sa neanche perché, perché sarebbe semplice. Sono tristi, guarda, le cose stanno così e così. Invece no. Ed ecco questa storia, tratta dalla poesia Il flauto di vertebre di Vladimir Majakovskij, dedicata a Lily Brick, questa donna con la quale ha vissuto tutta la vita in un triangolo molto triste perché era solo lui ad amare e stavano lei, il marito, Osip Brick, insieme. Oggi, appena entrato nella tua casa, mi sono sentito a disagio. Tu nascondevi qualcosa nell'abito di seta e si fondeva nell'aria un profumo d'incenso. Sei felice? Hai risposto un freddo molto. Ascolta, tanto non riesci a nascondere il cadavere. Scagliami in viso la parola terribile. Ogni tuo muscolo urla lo stesso. È morto. È morto. È morto. Ovviamente parla dell'amore. Non mentire. Lo so, ormai è consumato l'amore. Da tanti segni indovino la noia. Lo so, per una donna sempre si paga. Non fa niente. Se non ti vestirò con l'abito di Parigi, ma solo col fumo della sigaretta. Hanno sbattuto la porta. È entrato lui, fresco, della gaiezza delle strade. Io, con un gemito, mi sono spezzato in due. Gli ho gridato, va bene, me ne vado. Va bene, rimarrà tua. Oh, questa notte. Al mio pianto e al mio riso, il muso della stanza si è storto in una smorfia d'orrore. Al mio paragone, re Alberto, che si è reso al nemico con tutte le sue fortezze, è un festeggiato ricolmo di doni. La guardiana del faro. Questo racconto che leggerò si chiama L'onore delle armi. È un vecchio racconto, è uscito nel libro Fulmini, mi pare del 1984, l'editore Spirali. È la storia di un amore coniugale che si configura come una lotta appassionata fra un uomo e una donna. Lui ha il potere, lei ha le parole, delle parole che pensa e non gli dirà mai. Partiste per la guerra. I primi tempi mi mandavate spezie e abiti preziosi dalle città messe a ferro e fuoco. Ora la guerra è sempre più lontana e qui arrivano solo giovani che hanno combattuto con voi e poi, non si sa perché, disertarono. Un ragazzo che avevate fatto soffrire mi riposava in petto. E mi dicono che la vostra spada è la più rossa di Francia e che in battaglia tutti puntano alla vostra testa bruna che non soffre armature. Ma le frecce vi fanno da corona e nessuno riesce mai a colpirvi. Ora mi mandate solo soldati che non hanno più fame, che allontanandosi da voi arrotano le armi e giurano che un giorno vi ammazzeranno. Li lavo e li accudisco come fossero i figli della vostra pazzia, che giurai di servire. Li consolo a volte fino all'alba, e mentre ristoro i loro corpi, mi faccio dire com'è che sarete ucciso e quando e con quale arma e se soffrirete e se vi coglieranno in faccia o alle spalle. Io so che non tornerete mai, che siete fatto solo per andar via, ma come posso sentirmi abbandonata quando passo le notti immersa nel vostro sangue che sgorga sotto la gola, negli spruzzi evocati dai vostri immaginari assassini. Mi raccontano ogni dettaglio, menzogne soddisfacenti. Figurando la vostra morte, essi mi fanno godere il rigoglio della vostra vita. Stamane, per un fendente che vi colpì all'improvviso, questo piccolo bretone cattivo e il più accanito contro di voi, morì sterantolando. Mi descrissi a lungo il vostro gemito e perché, è tremendo il bretone, perché vi avrebbe ucciso. Diceva, assai lentamente. L'alba era ancora piena del vostro gemito e non mi accorsi delle trombe. Cavallo e cavaliere, abbattendosi sfiniti nella corte, portarono la notizia che avete spugnato la città di Altamura, che sempre vostro è l'onore delle armi. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Quando ci siamo conosciuti, lui aveva dei gravi disturbi sessuali, ma dopo pochi mesi con me andava che era una meraviglia. Non aveva lavoro e io giù a prestargli soldi finché gli ho trovato un posto. Ma lui non era all'altezza, così gli ho fatto un corso accelerato senza dormirci la notte perché lui potesse capirci qualcosa. Aveva una sorella con gravi turbe psichiche. Grazie a me ha ritrovato la tranquillità. Una sera è venuta qui, le ho detto se voleva restare a dormire e lo sai quanto è rimasta? Un anno e mezzo, in una casa di 3 stanze. Io sempre sorridente, ma loro due hanno cominciato a odiarmi. Io pagavo le cure della sorella dal neurologo e quei due mai un accenno di gratitudine. Finché lui mi dice fresco fresco che si è innamorato di un'altra. Se n'è andato, non l'ho visto più, neppure la sorella. Adesso li odio anch'io e mi pento di essere stata tanto generosa. Non riesco ad accostare altri uomini. Sono rovinata nei sentimenti e senza una lira. Ho 38 anni, ero bella, ma adesso mi è venuta una faccia cattiva. Camilla. Li hai aiutati? Adesso la paghi. Ma non cercare una spalla sulla quale piangere, non la mia. Ti sei data, ti hanno presa. Era questo che volevi, no? Eccone un'altra che vuole il premio della generosità. Ma non esiste. Dare è oltraggiare, è un lusso che costa caro. Quando dai, ti dai in mano agli altri, diminuisci il tuo potere, ovvero il tuo possesso, e quindi in questa civiltà impoverisci la tua identità. Ora, dare va benissimo, non va bene poi lagnarsi per avere dato. Per dare occorre essere santi, bisogna essere in grado di sopportare l'odio che ne segue. Siate avari, che è meglio, ma non rimpiangete mai di avere dato. Si vede che hai strafatto, che ti sei creduta più generosa di quel che eri. Non hai saputo smettere in tempo, hai esagerato, hai sopportato, perché anche tu li odiavi, non sei stata sincera, tu li dovevi cacciare, sei stata debole, non sei stata buona, non sei rovinata, ti conosci poco, tu hai una bella solida natura di egoista sulla quale potrai contare sempre e che ti conviene seguire. Guarda che io lo dico a te, ma lo dico anche a me, e spero di ricordarmene. I guai peggiori della mia vita mi sono toccati ogni volta che ho sopravvalutato la mia generosità, che mi sono creduta migliore, più umile, più nobile di quel che ero. Dare è un grande piacere, ma c'è questa sindrome della quale anch'io ho sofferto molto in gioventù e l'unico vero riscatto dell'invecchiare è che finalmente mi è passata. Io ti salverò. Quella presunzione gioiosa e dannosissima a sé e agli altri. La sindrome del salvatore, a cui segue quella di cui la psicologa Maria Rita Parsi ha fatto oggetto di studio, che chiama la sindrome rancorosa del beneficato. Comunque, la vostra convivenza deve essere stata un incubo ed è un gran bene che sia finita. Io ti auguro un 2013 con un'altra Camilla, non più così bisognosa di sicurezza, da doversi ciecamente, direi anche bestialmente, immolare per gli altri. Ho 36 anni, sono sposata, ho 2 bambini meravigliosi. Ho poco tempo. Ho trascorso un anno non molto felice, alti e bassi con mio marito, errori da parte mia, e lui si trova un'amica, solo un'amica con cui parlare al telefono, ma mi tiene nascosta questa amicizia. Io lavoro tutto il giorno e con i bambini piccoli, la casa grande, il tempo è poco. Io gli credo, ma il dolore è talmente forte che mi avvelena la vita ed io divento insopportabile con lui. Conosco un ragazzo di 24 anni al lavoro. Mi fa il filo ed io penso di essere felice. Ci vediamo 10 minuti, un quarto d'ora alla sera, ci scambiamo qualche bacio e io gli dico che mi sono innamorata. Lui invece no. Mi dice di vivere questa storia alla giornata, che non riesce a togliersi la corazza che si è costruito in seguito ad una storia che l'ha segnato. E io torno a casa sporca ed infelice e tormento anche lui con le mie domande e la mia sete di certezze. Sto tenendo nascosta la verità a mio marito, pur avendogli rinfacciato per un anno la stessa cosa. Non so cosa fare. Forse dovrei lasciar perdere il mio giovane amante, che però tutti i giorni mi chiede se ci possiamo vedere, e sistemare le cose con mio marito. Forse dovrei sistemare prima la mia testa ed il mio cuore. Per i miei bambini, che sono la mia ragione di vita, e per mio marito, che penso abbia cercato un'altra perché io non avevo più tempo per lui. Quanti errori ho fatto? Ma sai, io non so se noi possiamo chiamare errori lo svolgersi dei sentimenti. Invece parliamo di fatti. Il fatto è che fra te e tuo marito la confidenza è fuori, con altri. E così anche l'emozione. È molto dolorosa per te la storia dell'amica di tuo marito che era solo un'amica, ovvero un'innamorata con cui non andava a letto. Però per te lo strazio di sentirti preferita un'altra c'era tutto intero. E un amore non consumato assume un che di sacro, di mai dimenticabile. E la stessa cosa tu con l'altro, quello che vedi un quarto d'ora ogni sera, quello che occupa i tuoi pensieri. E guarda, io credo che se lui ti avesse detto ti amo, non staresti in questo momento tanto a preoccuparti del rapporto con tuo marito. Poi sai, anche questo ragazzo non la conta giusta. Io non credo che insisterebbe per vederti ogni sera solo per qualche bacio, se non avesse un interesse più profondo. Tu descrivi delle anime in pena, che non trovano un sentimento autentico nel quale incarnarsi. E poi, tra l'altro, non siete neanche liberi. Avete sulle spalle la famiglia, i figli, pochi soldi. Siete obbligati alla prudenza e alla ragionevolezza, perché fate parte della generazione sacrificata e siete costretti a guardarvi pazientemente in faccia, tu e tuo marito, e vedere se potete essere ancora confidenti, amanti e ridere insieme. Magari le avete solo sepolte queste cose, perché se non ritrovate una confidenza, una simpatia vera, senza il quale non c'è né amicizia, né amore, né rapporti d'affari, né niente, qualsiasi decisione prenderete sarà sbagliata, perché sarà fondata sulla bugia e sulla reticenza. È una lunga strada il matrimonio. Se non si è alleati, niente è possibile insieme. Lisa, professoressa di lettere, mi scrive ricordando che io avevo detto Leopardi, Manzoni, Nievo non si salvano dallo scempio che ne fa la scuola. Li recuperiamo più tardi. E poi proseguivo citando Maupassant e dicendo che era tra i pochi che sfuggiva alla regola. E Lisa si è molto amareggiata perché dice che io ho parlato come se fosse un'ovvia risaputa verità che la scuola distrugga quando il più bello ci è dato possedere. E dice Lisa, non è così, non sempre almeno. Io direi piuttosto che la scuola prova ancora a conservare la bellezza della parola scritta, a tenerla pulita dalla patina grigia e uniforme che il presente getta su tutto, senza più distinguere il bello e il brutto. Ci prova, anche se lo fa male e con fatica. Gli insegnanti pessimi sono tanti, altri però cercano di non esserlo. Aggiungerò solo che i miei studenti hanno amato Leopardi, la sua fame di vita e di felicità, la sua poesia che scioglie il dolore proprio mentre lo esprime, la sua rabbia verso le mille bugie che gli uomini si raccontano. Lisa. Ecco, Lisa, vi invoglia di essere tuoi allievi a sentirti parlare così? Ma sai, Lisa, io parlando di questa come di altre cose, non enuncio delle leggi universali. Si tratta sempre di affermazioni arbitrarie riferite alla mia personalissima esperienza. Per quanto mi riguarda, io ho dovuto riconquistarmi palmo a palmo in letteratura gli autori dai quali ci avevano maldestramente allontanati. Ma la commedia di Dante, per esempio, dove l'attenzione veniva messa sulle note, sui fatti storici o teologici, importanti sì, ma non era tutto. Io mi ricordo che ricorrevo di nascosto a un'edizione commentata da Pietro Bono, che era molto più ampia e alta e rispettava la poesia. Sai, allora era in voga l'esercizio nefando, volgere in prosa. Che come si fa a volgere in prosa la terzina dantesca? Vuol dire strangolarla con le proprie mani. E addirittura mi ricordo di un professore di greco che ci faceva leggere le poesie di Saffo d'amore al maschile, come se fossero dedicate a un uomo, per non ammettere lo scandalo dell'amore fra donne che ancora oggi viene detto saffico o lesbico dall'isola di Lesbo, patria della poetessa. C'erano anche delle persone illuminate, come la professoressa di filosofia Nora Giacobini, che doveva somigliarti perché indirizzò la mia vita ed era un monumento alla disobbedienza civile, e ci leggeva in classe Pasolini, che era allora considerato il diavolo. Mia madre, che mai lo avrebbe letto, lo odiava a priori perché gliel'avevano detto i preti, lo odiava con fede, con tutta se stessa. E quando poi anch'io ho insegnato a scuola, nella prima gioventù, ho cercato di ricordarmi di come lei ci trascinava dentro la materia. E anche lei, lì, sai, sicuramente di quegli insegnanti di cui ci si ricorda con gratitudine per il resto della vita. Io sugli insegnanti la penso così, che noi siamo abituati a chiedere davvero troppo agli insegnanti. A un insegnante chiediamo di vivere poveramente, di consumarsi in un sacrificio maltrattato e oscuro. Gli chiediamo di essere per censo e considerazione sociale un paria esposto a ogni critica. Ed è una favola che si lavori solo poche ore al giorno, come dicono tutti i detrattori. Un buon insegnante studia tutta la vita, studia tutti i giorni, e a parte i compiti da correggere a casa, una lezione si deve preparare, sia liceo o scuola elementare, perché una lezione insieme iniziazione e spettacolo, non in senso esteriore. Chi insegna come un attore ti deve far entrare nella parte, ti deve far entrare nell'argomento, deve far sì che lo amiamo tanto da apprenderlo. E davanti al pubblico più difficile, più abitualmente distratto, l'insegnante deve dispiegare l'abilità del pedagogo, dell'affabulatore, del sapiente. Quindi, Lisa, tra la generalizzazione ideologica e un'affermazione fatta sulla propria esperienza c'è una differenza. Grazie per aver scritto. La guardiana del faro. Franco Paratici ci ha scritto: ho ascoltato la trasmissione di domenica 11 novembre, nella quale hai recitato una poesia, Burn It, Brucialo, del poeta Robert Graves. Franco chiede in quale raccolta di poesie di Graves può trovarla, perché mi serve per cercare il testo scritto della poesia e regalarlo a un mio amico scrittore. Franco Paratici: caro Franco, pensa che persino io, che sono veramente un arnese all'antica, so che comunque potresti trovarli immediatamente su internet. Basta che tu scriva Burn It di Robert Graves e ti arriva subito. In ogni caso, però, se vuoi saperlo, io l'ho preso nella raccolta di poesie I poeti sono uomini, traduzione di Giovanni Galtieri, Guanda 1964. Però il libro è stato anche ripubblicato, sempre da Guanda, nella collana Poeti della Fenice nel 1991, intitolato questa volta Lamento per Pasifae, e forse è più facile trovarlo. E poi, visto che ci tieni, ti dico anche qualcosa, poco, di Robert Graves, questo grande studioso e grande interprete dei miti greci, per citare la sua opera più conosciuta in Italia, pubblicata da Longanesi, oltre alle storie semi-immaginarie come Io Claudio. E abbiamo parlato di Robert Graves raccontando del poeta Wilfred Owen, quando li abbiamo trovati tutti e tre insieme, loro due e l'altro giovane poeta Siegfried Sassoon, che si trovarono nello stesso ospedale militare. Sassoon aveva da poco pubblicato il suo manifesto contro la guerra, contro quella guerra, la prima guerra mondiale, dalla quale erano appena tornati tutti e tre. E Robert Graves era riuscito a evitare a Sassoon la corte marziale, perché con quel manifesto questo coraggioso ragazzo l'aveva rischiata. Graves, Sassoon e Owen sono stati tre nemici della guerra che facevano la guerra. Owen e Graves vollero per forza essere rimandati al fronte per lealtà verso i compagni. L'impegno dell'onore non era per loro questa guerra che consideravano orribile, ingiusta, era il dovere verso i compagni. Grandissima sensibilità morale, volevano non sottrarsi al pericolo, condividerlo con i loro coetanei in quell'immane macello. Robert Graves era nato nel 1895 e visse per 90 anni, una vita pienissima, avventurosa nei fatti e nei sogni, nel suo vivere in stato di costante ispirazione, quasi trance, fra gli dei greci ed ebraici, le divinità celtiche, la storia romana che trasfigurò in libri come appunto Io Claudio. I suoi amori furono turbolenti e duraturi finché duravano. Due mogli, 8 figli, 4 figli con la prima e 4 con la seconda. E una nostalgia costante per i ragazzi. Non so quanto fisica, ma credo del tutto immaginaria. E poi la collaborazione artistica, tumultuosa come anche l'amore che lo legò alla poetessa americana Laura Reading, Amore tragico, a tratti farsesco, famoso il salto dalla finestra di lei e poi il tradimento plateale di lei con un altro scrittore col quale poi si mise, i ritiri di Robert Graves, prima in una campagna inglese solitaria e poi a Maiorca, e poi muse fino all'ultimo giorno, donne che per lui erano l'immagine della divinità e dell'arte. Ti leggo un articolo che uscì sul Corriere giusto 20 anni fa, nel dicembre del 1992, scritto da un altro grandissimo studioso e scrittore, Elémir Zola. L'articolo si intitola L'ultimo che udì la voce della luna, e che poi stranamente ci riporta a Michele Mari e al suo Leopardi lunare di Io venia pien d'angoscia a rimirarti. Ecco l'articolo di Zola. Fu pessimo poeta, vedi, invece noi lo leggiamo sempre, lo leggiamo perché non è esaltante come poeta, ma sono delle prose che hanno la scienza del concreto e degli affetti, le sue poesie. Torniamo a Zola. Fu pessimo poeta, ottimo prosodista, Robert Graves. Ma l'amore della dizione poetica fu in lui più forte che in chiunque altro. Meno intenso di Eliot, meno contratto di Oden, tuttavia nel suo animo celtico si accendevano furori ed esultanze travolgenti. Era anche un erudito di qualità rare, ne saprà indicare pochi pari a lui. Nacque nel 1895 di famiglia illustre, imparentato ai von Ranke. A scuola patì, come quasi tutti i ragazzini inglesi, e ne trasse un carattere contorto. Si addestrò come pugile per farcela. Prima che entrasse a Oxford, scoppiò la guerra e passò anni terribili nelle trincee, vedendosi falciare tutt'intorno i compagni, strisciando di pattuglia nella notte e sentendo la mano slittare sul liquame. Ferito, fu preso per morto. Rimase acciaccato, rantoloso, ossessionato. Riuscì infine a iscriversi a Oxford e a sposare una giovane femminista fanatica. Parentesi, quando io ho conosciuto Elémir Zola, lui era sposato con una giovane femminista fanatica. Cominciò a capire che quando temi e contrasto turbano la mente e un poeta non li sa conciliare, dovrà autoipnotizzarsi come gli sciamani. Come studioso si imbeve di Fraser. Gli capitò un incontro fatale e terrificante con la teorica e poetica americana Laura Reading. Provò a vivere in trinità con lei e la moglie, ma quando tentò di raggiungere la quaternità con un imbroglioncello irlandese, la combinazione saltò in aria. La Reading si buttò dal balcone e finirono tutti in mano agli avvocati. Scappò dall'Inghilterra e si stanziò con la Reading a Deià, nell'isola di Maiorca. Diventò familiare con le fonti romane, eccetera. Poi ci fu la separazione con la Reading, che lui chiama Bassaride Rediviva. Qui davanti a me la sua foto di vecchio pirata, magnifico, vecchissimo, con un cappellone da bandito e una bella sciarpa rossa e i riccioli bianchi al vento. E ecco, ti do solo un assaggino, Franco, piccolissimo, dei miti greci, di questo libro che ti consiglio veramente di leggere. Questo è la creazione del mondo. All'inizio, Eurinome, dea di tutte le cose, emerse nuda dal caos e non trovò nulla di solido per posarvi i piedi. Divise allora il mare dal cielo e intrecciò da sola una danza sulle onde. Danzando si diresse verso sud e il vento che spirava alle sue spalle le parve qualcosa di nuovo e di distinto. Pensò dunque di iniziare con lui l'opera della creazione. Si voltò all'improvviso, afferrò questo vento nel nord e lo soffregò fra le mani. Ed ecco apparire il grande serpente Ofione. Eurinome danzava per scaldarsi, danzava col ritmo sempre più selvaggio, finché Ofione, acceso di desiderio, avvolse nelle sue spira le membra della dea e a lei si accoppiò. Il vento del nord è un vento fecondatore. Spesso le cavalle, accarezzate dal suo soffio, concepiscono puledri senza l'aiuto di uno stallone. Ecco, il mondo comincia con una lite per il copyright. Eurinome e Ofione, i due fondatori, i due creatori del mondo, andarono a vivere sul Monte Olimpo. Ma Ofione irritò la dea perché si vantava d'essere il creatore dell'universo. Eurinome allora lo colpì alla bocca con un calcio, gli spezzò tutti i denti e lo relegò nelle buie caverne. Questa è una poesia di Robert Graves, si chiama Sogno di un arrampicatore. Osservate questo arrampicatore, come drizza la sua scala dalla terra fino al cielo, e mica di notte. Il legno e di prima qualità. Perfetta l'inclinazione fallico-spirituale e in cima un vago, impalpabile bioccolo di nuvola. Esca eccellente per gli arcangeli. Su, forza, monta, arrampicatore, col tuo cappello scientifico e gli occhietti interessati di giocatore di professione. Fa una pausa, posa per il fotografo. Noto arrampicatore in procinto di salire. Ma sul giornale, c'è da giurarlo, non apparirà sul gradino più basso, ma quasi fuor di vista, a momenti nella nuvola, mentre si scosta per far passare un angelo, con le grandi mani muscolose in pieno sole, ai piedi scarpe da rocciatore. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.